L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, ben ritrovati in una nuova puntata dell'Altro Pianeta, nella quale tentiamo un po' l'impossibile, cioè farvi sentire gli odori in radio. L'occasione è il viaggio olfattivo, per l'appunto, che offre una gradevolissima esposizione a Villa Mirabello, che si trova nel Parco della Reggia di Monza. Ficcanaso al parco si chiama questa mostra, si parla di fisiologia dell'olfatto, chimica degli odori, si annusano le fragranze di piante animali, profumi, ma anche puzze. Ficcanaso al parco ha appena aperto i battenti, resterà fino a luglio, aperta al pubblico nei fine settimana, nei giorni feriali e dedicata alle scuole. A Villa Mirabello ci ha accolto Luca Baglivo, che è l'organizzatore della mostra, mentre poi Silvia Mattavelli ci ha accompagnato fisicamente nella visita. Questa mostra è stata curata dall'Università della Svizzera Italiana di Lugano, in particolare da un dipartimento l'ideatorio che si occupa di divulgazione scientifica. A noi, di concerto con l'ente Parco, ha fatto molto piacere portarla a Monza, in quanto parla di un senso che tutti i giorni noi utilizziamo a tutte le ore, ma che ci è abbastanza sconosciuto, cioè l'olfatto. Come si sviluppa la mostra? Poi l'andiamo a visitare sala per sala, però com'è organizzata? La mostra ha diverse sezioni, la sezione più che parla di neurobiologia, di anatomia, di botanica, però c'è anche la sezione sui vini, c'è una serra esterna con delle piante, ma direi che l'elemento chiave di questa mostra sono dei diffusori che consentono ai visitatori di annusare più di 100 odori. Si comincia con una piccola selezione, diciamo così, no? Si mette alla prova il visitatore facendogli annusare alcune provette, c'è un gioco per appunto valutare se ci andiamo vicini o ci andiamo molto lontani, e poi via via si prosegue in modo anche da imparare e a capire come abbiamo dimenticato e trascurato questa nostra possibilità e come gli animali invece l'abbiano ancora tuttora molto sviluppata. Silvia Mattavelli, prima sala, che cosa incontra il visitatore? Io ho anticipato che ci sono questi computer per mettersi un po' alla prova, ma non c'è solo questo in questa prima sala. Allora, qui abbiamo modo proprio di iniziare ad avvicinarsi all'esperienza olfattiva, partendo dalla biologia e dalla fisiologia proprio del naso e di tutto il processo dell'olfatto, con delle spiegazioni sempre più approfondite. Possiamo anche vederlo il naso con questa postazione, dove grazie a un microscopio possiamo proprio andare ad esplorare all'interno delle narici dei nostri visitatori. Sì, per amanti dell'horror possiamo dire, perché è bello ingigantito comunque. È molto ingigantito, in realtà poi le persone apprezzano molto questa cosa, anche se all'inizio tanti sono titubanti, e anche per vedere dove stanno gli odori, per esempio nelle foglie delle piante aromatiche. Che dove stanno? Stanno, si vedono molto bene per esempio nella salvia o nel rosmarino, sulla pagina inferiore, quindi la parte sotto della foglia, riusciamo a vedere, ingrandendo una sessantina di volte, delle bollicine, che sono delle sacchettine di oli essenziali, che le cellule che stanno in quella parte della foglia producono, mettono lì coperte da una pellicola molto sottile, nel momento in cui viene sfregata si rompono e rilasciano gli odori. Ecco, spiegato perché ci viene spontaneo schiacciarle le foglie, altrimenti sentiremo molto poco. Esatto. Dunque, mentre ci avviciniamo all'altra sala, vorrei sapere a chi è destinata questa mostra. Allora, noi ci rivolgiamo alle scuole, che possono venirci a trovare facendo delle visite guidate e delle esperienze con animatori che li seguono durante tutto il percorso. Ma abbiamo notato anche all'apertura che comunque anche gli adulti si divertono moltissimo e scoprono tantissime cose. Una cosa molto bella con gli adulti è che hanno un grande bagaglio di storie da raccontare, e come diciamo prima, visto che gli odori sono molto legati alle emozioni e ai ricordi, parlando con persone anche di qualche decennio, ti raccontano veramente storie e vanno a ripescare ricordi lontanissimi. Dunque, in questa sala ho odori vegetali, odori umani, odori animali, odori sintetici. Questi sono i cartelloni che io posso leggere, ma che cosa si può fare avvicinandosi e scoprire, diciamo? Allora, qui abbiamo cercato di riassumere un pochino quali sono le fonti principali di odori, quindi da dove vengono gli odori che noi principalmente sentiamo, con cui siamo a contatto tutti i giorni. Quindi vegetali, le diverse parti dei vegetali che possono essere odorose, qui abbiamo 4 esempi, in realtà poi sono molte di più le parti odorose. Avviciniamoci così provo ad annusarli. Certo. Allora, qui ne abbiamo scelti anche quattro che sono buoni, come poi diciamo prima ce ne sono anche di non particolarmente buoni. Quindi il patchouli, che è... Che non avevo idea fosse una pianta, ma credevo fosse già un'elaborazione, invece no. È proprio la pianta, viene proprio dalla foglia, l'odore che si sente. Frutti semiscorze, come esempio abbiamo preso il bergamotto, che poi anche per la storia italiana di una certa parte d'Italia, in Calabria è la patria del bergamotto sostanzialmente. Che ha avuto un grande rilancio da un punto di vista così commerciale negli ultimi anni, era un po' scomparso, ma questo è una nota a margine. Okay. Il sandalo, quindi il legno, però poi potremmo avere anche le radici, le resine, se pensiamo ad altri tipi di piante, e poi beh, quelli a cui tutti pensiamo quando pensiamo al profumo, che sono i fiori. Il gelsomino in particolare. Abbiamo... C'è un, per descrivere gli ascoltatori, c'è un, non saprei come chiamarlo, un tubicino con un tappo sopra e ci si avvicina e appunto si annusa. Ora qui c'è di fianco il nome, nel caso non ci fosse il nome si indovina, come è successo prima. Mi dicevate prima, ogni tanto siete costretti ovviamente a diciamo caricarli di essenza per poter appunto proseguire nella mostra, che durerà fino a luglio tra l'altro, quindi un bel periodo. L'idea appunto elaborata in Svizzera, arrivata qua, voi avete dovuto immagino imparare anche a utilizzarla e... Sì, anche organizzarci, perché ci sono più di 100 odori qua dentro, e quindi quando gli allestitori poi ci hanno lasciato in mano le chiavi della mostra, ci hanno lasciato sotto a ciascuno di questi pannelli i boccettini con quello che ci dovevamo mettere dentro. All'interno di questi supporti ci sono delle provettine contenenti Porex, che è una sostanza plastica che comunque assorbe molto gli odori e li trattiene molto. C'è un lavoro che consiste ogni tot, noi lo facciamo tutti i weekend di apertura, alla fine della giornata fare un giro in un paio di persone ad annusarli tutti, proprio per vedere se qualcuno ha bisogno di essere ricaricato. Non abbiamo ancora imparato a conoscerli benissimo, da capire quello che evapora più velocemente, quello che evapora meno velocemente, e quindi per il momento li stiamo tenendo sotto controllo tutti strettamente. L'altro pianeta. Bentornati a Ficca Naso al Parco, così si chiama la mostra di cui stiamo parlando, che è al Parco della Villa Reale di Monza. Si parla di olfatto e di odori e di puzze che diventano profumi. Sentite cosa ci ha raccontato Silvia Mattavelli, che ci sta accompagnando in questa visita. Che cosa c'è? Io prima ho mancato, tra mucca e cavallo mi sono sbagliata qua, e qui sarebbe ancora più difficile, vedo un muschio addirittura. Zibetto. Sì, qui sarebbe l'odore dello zibetto mi sfugge totalmente. Allora, che in realtà è l'odore non solo dello zibetto, è l'odore di una secrezione di una ghiandola posta sopra l'ano dello zibetto. Quindi la domanda che sorge spontanea è: chi per primo è andato a mettere il naso sotto la coda dello zibetto? Questo sarebbe bello da sapere. Anche perché queste molecole sono tutte di origine animale, tutte di origine, tra virgolette, un po' schifosa. Abbiamo la ghiandola sotto la coda dello zibetto, abbiamo altre ghiandole nel castoro che producono questo odore e sono poste comunque vicino all'ano. Abbiamo il vomito di balena, di capodoglio, e abbiamo queste ghiandole sessuali del cervo muschiato che producono delle sostanze odorose che vengono espulse sotto forma di piccole palline. Ecco, la curiosità è che da queste ghiandole vengono degli odori che vengono utilizzati nella profumeria, esatto. Quindi andiamo in tutt'altro ambito che a noi piace molto di più invece. Esatto, infatti alcuni ad alte concentrazioni non sono poi così piacevoli, hanno bisogno un pochino di avere un naso un po' allenato, quindi per esempio lo zibetto e il castoro sono quelli che ad alte concentrazioni risultano ancora un pochino fastidiosi, però a basse, se si prova ad allontanarsi un po', comunque si iniziano a sentire degli aromi già più piacevoli. L'ambra grigia, che è la sostanza, l'odore preso da questo appunto vomito, possiamo chiamarlo, secrezione della balena e del capodoglio, invece ha un odore, non so se l'hai sentito prima. No, non ancora. è sgradevole comunque. No, esattamente. Beh, quando viene, quando uno si avvicina con molta più circospezione dopo aver letto quello che c'è scritto, insomma. Ma infatti è molto divertente anche questo aspetto. Io quando per esempio lo introduco ai visitatori, tante volte proprio copro anche il nome, perché uno magari l'ambra grigia l'ha già sentita in alcuni profumi, in alcuni bagnoschiuma, quindi dice: vabbè, ambra grigia, ah, ecco da dove viene, ed è un pochino più sicuro. Io invece glielo presento proprio come vomito di capodoglio, quindi la gente in genere non si vuole avvicinare fino a che non c'è il primo temerario, che allora dice: caspita, ma è buono. E quindi la cosa forse che può essere anche interessante è che anticamente questi odori venivano estratti proprio dalle ghiandole degli animali o dalle pance dei capodogli. Adesso invece che abbiamo imparato a conoscere questi odori, le molecole, tutta la chimica che ci sta dietro, sono tutte molecole di sintesi, che quindi riproducono la molecola naturale prodotta dal castoro o dallo zibetto, ma non è più necessario andare a prendere l'animale e fare del male all'animale per ottenere queste molecole. Voglio il tuo profumo! Voglio il tuo profumo! Dagli odori animali alle puzze il passo è breve, e cioè è la sala successiva. Qui sono poste uno in fronte all'altro i profumi, quelli proprio anche commerciali che conosciamo, i più famosi profumi messi da anche personaggi famosi, Chanel numero 5 per esempio, famosissimo Chanel numero 5, e sono dirimpettai della nostra parete delle puzze, che invece sono gli odori un pochino più sgradevoli che abbiamo. Giusto, all'interno per dire, della nostra... odore di ospedale, carne putrefatta, vomito, pesce marcio, eccetera, eccetera. Insomma, la linea è questa. Come mai li avete messi così in contrapposizione? Ma uno, perché ci piaceva proprio questo contrasto, e due, perché in realtà sono abbastanza collegati. Lo scatolo, per esempio, che è la molecola che dà l'odore più caratteristico della cacca, delle feci, in realtà a basse concentrazioni acquista un aroma quasi floreale, che viene utilizzato anche in famosissimi profumi come appunto lo Chanel numero 5. Quindi a basse concentrazioni c'è anche questa molecola della cacca nello Chanel. E quindi cioè, la curiosità l'abbiamo scovata. Sala degli animali, l'hai definita, Silvia. Come mai sala degli animali, e che cosa possiamo scoprire, diciamo, leggendo questa cartellonistica? C'è un ratto, c'è un maialino. Allora, noi siamo partiti parlando tanto di naso e ci siamo concentrati sul naso umano. Adesso andiamo a scoprire un po' di nasi animali, perché anche gli animali hanno il naso, spesso e volentieri funziona addirittura meglio di quello umano. Tanto che ci sono alcuni animali, come può essere il ratto del Gambia o alcune razze di cani, che una volta addestrati vengono utilizzati il ratto come sminatore, quindi riesce a trovare le mine in terreni dove sono sepolte. E quindi, diciamo, è molto utile perché risparmia un sacco di lavoro e di rischio all'essere umano. Il ratto e anche alcune razze di cane vengono usati anche nelle diagnosi di certe malattie. Per esempio, alcuni cani sono in grado di sentire dei metaboliti, delle molecole che vengono prodotte in determinati tipi di cancro. Cancro ai polmoni, cancro alla prostata. E se pensiamo che sono molecole che comunque sono lì, dove però gli uomini quello che potrebbero fare è prendere campioni di urina, di fiato anche, e andarli a analizzare in laboratorio, spendendoci diverse ore, gli animali le sentono a naso. E quindi in 5 secondi ci sanno dire se c'è o non c'è, e quindi ci mettono in allarme e ci possono dire. Beh, la zanzara che abbia un buon naso lo sappiamo tutti. La zanzara lo sappiamo, anche la vita sociale delle api è comunque molto organizzata sull'odore, in particolare proprio di queste sostanze che sono i feromoni, che invece gli esseri umani non sentono. Stavo spaventando. A uscire fuori. Sì, ma io credevo ci fosse un visitatore così combinato. anche noi, infatti poi gli abbiamo dato un nome proprio per quello. Razio è il nostro medico della peste, e abbiamo questo nostro Razio addobbato così tutto in nero, col bastone, la cintura con le fialette odorose e questo becco. Orazio era un medico della peste, andava in giro a curare gli appestati quando si pensava che certe malattie potessero essere curate con i buoni odori, con i profumi. Questo era il legame tra il bene e il profumo, il male e la puzza. Se ci pensiamo, è abbastanza comune, certo, in ogni genere di credenza e di civiltà. Dammi tutto il tuo sapore, no, ti prego, no, non ti asciugare. C'è anche un bel test sui feromoni umani che non vi svegliamo affatto e vi traghettiamo invece verso la sala successiva e poi il gran finale nel prato. Area più vegetale, famiglie di piante, annusa i frutti, quindi qui c'è da mettersi un pochino alla prova, però c'è l'aiutino perché appunto c'è scritto poi dopo che cos'è. Sì, allora qui abbiamo alcuni giochi di riconoscimento, il più semplice forse proprio perché ci sono più vicini è quello di riconoscere i frutti. Quindi in questa grande struttura abbiamo gli odori, abbiamo delle carte rappresentanti dei frutti e ai visitatori viene chiesto di abbinare il frutto con l'odore corrispondente. Noi sappiamo dove sono le soluzioni, ovviamente, anche se poi alla lunga abbiamo imparato a riconoscerli tutti quanti, ed è curioso vedere, qua si vede molto bene, per esempio con i frutti, che i bimbi sono bravissimi. Ma è normale, perché comunque i bimbi effettivamente hanno un olfatto migliore rispetto agli adulti. Sì. Allora, passiamo dall'area piante e frutti a quella esterna, quindi con fiori. Ma in realtà ci sono proprio le piante vere. Le piante vere, che poi dopo voi siete in un parco, se non sfruttate voi questa possibilità, insomma. Esatto. Altri non ce l'hanno. Esatto, quindi invece che annusare solamente da queste provettine abbiamo proprio una selezione di piante, molte piante aromatiche, che un visitatore domenica è uscito qui, ha fatto una passeggiata, ha toccato un po', accarezzato un po' le piante e ha detto: odore di Sardegna, perché effettivamente tantissime sono piante della macchia mediterranea, diversi tipi di timo, diversi tipi di salvia, basilico, anche se un pochino presto, e quindi probabilmente dovremo... Il basilico sì, è l'unico che abbiamo un pochino forzato. E queste sono quelle piante di cui dicevamo prima, che messe sotto il microscopio si vede l'ampollina, sotto alcune almeno. Sì, le piante che a noi piace di più vedere, perché hanno proprio, si vede proprio bene, sono... la salvia, che si può vedere sia la pagina superiore con tutta questa peluria che sembra proprio una foresta, un batuffolo, che la pagina inferiore invece dove si vedono proprio bene queste goccioline. Il rosmarino, dove il suo aghettino nella pagina sotto ha tutte queste goccioline messe in modo molto ordinato, quasi in fila, mentre quando si gira si guarda la pagina superiore ingrandito, stiamo parlando di ingrandimenti una sessantina di volte, sembra un cetriolone perché invece è molto più liscio e di un verde più scuro, brillante come il cetriolo. Questa non è l'ultima ala, perché poi so che c'è il vino. Le piante che sono qui sono piante del parco, sono qui per questa specifica occasione, resteranno? Allora, sono piante che resteranno qua e ne verranno aggiunte anche altre a seconda della stagione e che ci vengono portate e gestite da una floricoltura qua di Monza, che è la floricoltura Chiaravalli. L'ultima parte, l'ultima sezione che non abbiamo citato fino adesso è quella che riguarda il vino, quindi anche per gli appassionati di questo argomento, perché ovviamente tutto ciò che riguarda il vino passa anche dal nostro naso e quindi diamo un'idea di quello che ci si può trovare. Sì, allora abbiamo proprio una cantina che abbiamo risistemato per l'occasione. Sono esposti delle provette con degli odori che si riconoscono all'interno del vino e che verranno utilizzati anche durante le domeniche pomeriggio, in cui ci saranno i sommelier qui a disposizione di un gruppo di persone che faranno queste visite con i sommelier. E poi c'è proprio quella un pochino più alla portata di tutti, è proprio un'antica botte che conteneva vino e dove da un buco si sente proprio questo odore forte di vino rosso. Sì, li abbiamo concluso qui fuori, direi, la nostra velocissima visita. Grazie. Grazie a te. Bene, grazie a Silvia Mattavelli e a Luca Baglivo che ci hanno accompagnato in questa visita a Ficcanaso al parco. Grazie a tutti voi per l'ascolto, per scriverci, vi ricordo, l'altropianeta@radio24.it. Da Laura Bettini, appuntamento alla settimana prossima alla stessa ora.